nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, ben trovate, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Lo sapete che ogni domenica ci dedichiamo a quelli che sono i temi del lavoro, visto dall'angolazione particolare che è quella delle donne che lavorano. Questa domenica però guardiamo a un lavoro davvero speciale, un lavoro che forse per la prima volta sarà fatto da una donna, forse perché bisognerà aspettare l'8 novembre per saperlo. In effetti più di una tra voi ci ha scritto dicendo: ma quando parlate di Hillary Clinton? Ecco, ne parliamo questa domenica, anche perché stanotte ci sarà, stanotte per l'Italia ci sarà alle 3 di notte, ora italiana, il secondo dibattito che vedrà Hillary Clinton, prima donna candidata alla Casa Bianca, scontrarsi col suo competitor, con Donald Trump. C'è già stato un duello televisivo e nella loro prima volta pare che Hillary Clinton, almeno così hanno considerato i media americani e non solo, abbia vinto sia pure di stretta misura. Vedremo come andrà questa seconda volta. Il duello si svolge nel contesto più normale che ci sia, quello di una università americana. Dico normale perché è ai giovani e ai millennials che i due contendenti stanno guardando, e tutti e due hanno un po' di difficoltà a acchiappare questo filone elettorale. Voglio proprio sentire che cosa pensa della prima donna candidata alla Casa Bianca il nostro agente provocatore di questa domenica. Benvenuto e buona domenica al direttore del giornale, Alessandro Sallusti. Buongiorno. Buona domenica, Sallusti. Beh, è arrivato o non è arrivato il momento di vedere una donna alla Casa Bianca? Ma io non sono per le distinzioni di genere. Io ho conosciuto tanti uomini capaci e intelligenti, tante donne capaci e intelligenti, tanti uomini mascalzoni e inadeguati e tante donne mascalzoni e inadeguate. Quindi io spero che vada a Casa Bianca una persona capace. Non penso che il fatto di essere donna sia una garanzia di capacità. Questa... come non lo è l'essere uomo. Questa è, con noi sfondi una porta aperta. Questo programma si chiama Nessuna è Perfetta e sulle imperfezioni delle donne in primis ci costruiamo ogni domenica una puntata. Però non puoi non tenere conto del fatto del valore storico che, a parità, e non tutti sono d'accordo che sul fatto che Donald Trump sia qualificato per fare il presidente degli Stati Uniti quanto lo è Hillary, ma comunque seppure fossero a parità di competenze, il fatto storico di avere una donna alla Casa Bianca resterebbe. Sì, beh, certo, la prima volta resta negli annali, come nelle vite degli uomini, degli esseri umani, anche nelle vite delle società e dei paesi, la prima volta che accade qualcosa resta negli annali. Ma voglio dire, siamo reduci da una prima volta per quanto riguarda i presidenti americani, il primo presidente di colore, ecco, come dire, è rimasto alla storia in quanto primo presidente di colore, non è passato alla storia in quanto presidente, perché sotto il suo mandato negli Stati Uniti, nel mondo governato, diciamo così, dall'America, ha ottenuto dei primati risultati. Permettimi di dissentire, perché Barack Obama vede proprio in questi ultimi mesi una crescita esponenziale nei sondaggi, e qualcuno maliziosamente osserva, cioè forse lo confrontano con i due che potrebbero sostituirlo, e evidentemente rifulge di luce. Però insomma l'economia negli Stati Uniti è andata discretamente bene, anche se ci sono tutte le sacche di difficoltà e di povertà che si conoscono. Questa sera, appunto, alle 3 di notte, orario italiano, ci sarà il secondo duello tra Donald Trump e Hillary Clinton. Del primo si è detto che ha vinto lei, sia pure ai punti. secondo te quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dei due candidati televisivamente parlando? Beh, i punti di forza, Hillary è una persona che, diciamo così, fa stare a tavola televisivamente parlando, maneggia bene il mezzo televisivo, ha una lunga esperienza sia come First Lady che poi come segretario di Stato, eccetera, eccetera. Quindi è ortodossa, è politicamente corretta, sia pure essendo una donna tosta, non è che è una mammoletta, però sa come funziona. Trump è un trasgressore, la sua forza è trasgredire questi canoni. Nel primo duello televisivo Trump è andato meno bene perché non ha voluto fare il trasgressore, quindi se ti vai a confrontare sul piano del politicamente corretto con Hillary sicuramente perdi, perché Hillary è più politicamente corretta di te. Ma cosa c'è di vero secondo te, e secondo me ce n'è molto, il fatto che Trump ha copiato la campagna elettorale di Silvio Berlusconi? Io che ho seguito Silvio Berlusconi nella campagna elettorale come te nel 94 e sto seguendo, sia pure a distanza, quella di Trump, vedo molti punti in comune. Secondo te ci sono? Beh sì, se per punti in comune intendiamo il voler non solo ribaltare alcune logiche politiche e introdurre alcune visioni politiche, ma ribaltare il modo e la dinamica di fare politica, beh, sicuramente il paragone è fondato. Berlusconi ha rivoluzionato in Italia, ma direi in Europa. Prima di lui non ho memoria di campagna elettorale fatta in quel modo, cioè la personalizzazione, la provocazione. E sono tutti e due imprenditori con una forte presenza anche televisiva, ci sono molte cose in comune. Sicuramente ci sono molte analogie. La nostra forzatura di paragonarli è impropria perché innanzitutto sono passati più di 20 anni, quindi il mondo è diverso, i problemi sono diversi e tutto è molto diverso. L'America non è l'Italia, per cui è un po' una forzatura giornalistica, però certo ci sta. L'America sta scoprendo che si può fare politica anche in un modo diverso da come l'ha vissuta fino a... Bisogna tornare indietro forse, ma io non seguivo ancora così attentamente le vicende del mondo. Bisogna tornare alla campagna elettorale di Reagan, che fu un piccolo terremoto anche quello. Certo. Se no, ha avuto una serie di presidenti politicamente corretti introdotti nel sistema. Ma non è che mentre sta a New York Berlusconi riesce a incontrare Trump? I due si conoscono. Ma i due si conoscono, immagino, sicuramente. La mia impressione, ma non voglio fare portavoce del presidente Berlusconi, è che in realtà Berlusconi non ami, politicamente parlando, Trump. Non, in quelle rare occasioni che mi è capitato di parlare di questa cosa, non l'ho trovato mai particolarmente entusiasta di Trump. Certo, parlava del Trump della campagna elettorale. Io penso questo, cioè che quando il presidente, tutti, ma insomma in America, nel mondo anglosassone, a un certo punto il presidente degli Stati Uniti giura sulla Bibbia di fedeltà alla Costituzione e di lì non c'è verso di spostarlo. Cioè un conto è la campagna elettorale, un conto è poi che cosa farà da presidente. Credo che siano due momenti distinti e diversi. Il sistema americano, gli americani non permetterebbero un presidente sbuffone, un presidente che violi le regole o che sfugga i controlli. Io questo non lo voglio neanche immaginare. L'ultima cosa, caro agente provocatore, ti provochiamo noi. Se Hillary vincesse e diventasse presidente degli Stati Uniti, secondo te a catena già abbiamo Angela Merkel in Germania, Theresa May in Gran Bretagna, ma insomma prima o poi ci sarebbe una femminilizzazione della premiership politica anche in Europa? Beh, hai citato i primi due paesi europei, sono già guidati da una donna, quindi diciamo che in questo caso abbiamo anticipato l'America. Noi non fa un grande effetto vedere una donna a capo della Germania o a capo dell'Inghilterra. In questo paradossalmente siamo più evoluti degli americani. Tu chi vedresti bene come presidente del Consiglio donna? Ma non faccio nomi perché non ne vedo una che direi questa potrebbe avere i requisiti per fare il presidente del Consiglio donna, anche se, e abbiamo degli esempi, la Merkel, la Thatcher, adesso vediamo questa successora della Thatcher, ma io penso che quando uno raggiunge quei livelli è improprio parlare di uomo donna, si è uomini di potere, si è esseri umani di potere, sia che si provenga da un sesso maschile che da un sesso femminile. Credo che quando arrivi a quel livello l'essere uomo donna non conta veramente più niente, o conta pochissimo, insomma non vedo tu ci smonti tutta l'impalcatura della nostra puntata, ma insomma è anche il tuo ruolo di agente provocatore e ci sta. Grazie Alessandro Sallusti, grazie al direttore del giornale, buona domenica. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Lo sapete, questo è il momento della nostra Sunday Girl. Una Sunday Girl davvero speciale questa domenica. Se questa domenica parliamo di donne e potere con un occhio a quella che potrebbe diventare la più potente di tutte, vale a dire con un occhio alla potenziale prima donna presidente degli Stati Uniti, beh, non potevamo non avere una Sunday Girl che è una assoluta autorità nel campo. Jessica Grounds, political strategist, è tra i 50 influencer politici negli Stati Uniti e è esperta di leadership femminile. Pensate, Jessica allena le donne a entrare in politica ed è stata direttrice di Women Ready for Hillary, la campagna che ha costruito il consenso intorno a Hillary Clinton per la corsa alla Casa Bianca. E dunque, welcome Jessica. Thank you so much, great to be here. Quante difficoltà e quante possibilità ci sono che gli Stati Uniti abbiano per la prima volta una donna alla Casa Bianca? Well, I think she has a great chance of becoming the first woman to be our president of the United States. Penso che Hillary Clinton abbia molte chance per diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti. Tutti sanno che ci sono state oltre 30 donne che hanno corso per diventare presidenti, ma questa è in assoluto la prima volta in cui una donna abbia vinto le primarie, diventando in automatico la candidata del Partito Democratico. La questione, a mio avviso, veramente interessante, sarà lo step successivo. Vedere l'effetto che questa possibilità avrà sia per le donne americane che per quelle di tutto il mondo. Insomma, ora possiamo diventare presidente, possiamo comprendere tutto il nostro potenziale, possiamo fare qualunque cosa. Si è detto che Hillary Clinton rappresenta un modello molto, diciamo, old style, di donna in carriera, molto dura, poco femminile. Si è anche detto che le giovani donne non si identificano in lei, mentre le 50-60enni sono tutte con Hillary. Quanto c'è di vero in questo? Well, Hillary has been in the public eye for over 30 years, and I think Hillary è stata sotto gli occhi dell'opinione pubblica per oltre 30 anni e alcune volte il suo successo è dovuto proprio al fatto di avere seguito modelli di leadership maschile. Ma bisogna riconoscere che Hillary è stata un'innovatrice per tutta la sua vita. Quando è stata First Lady negli anni 90, è stata la prima a dire che i diritti delle donne sono diritti umani. Ha potuto sperimentare su se stessa la differenza che le donne possono fare occupare in posizione di leadership nella sfera pubblica. Per quanto riguarda le giovani donne in particolare, ricordiamo che Hillary ha un vantaggio di 25 punti al momento in questa campagna elettorale tra le giovani donne. È vero che abbiamo visto in passato in alcuni stati che Hillary non ha goduto forse dello stesso supporto tra le giovani donne, ma spesso quello che dobbiamo fare è soltanto educare e ricordare a queste giovani donne, che appunto sono cresciute in un mondo dove possono fare tutto ciò che le loro controparti maschili possono già fare, ricordare loro i cambiamenti che sono stati fatti negli anni e le battaglie che sono state vinte per permettere alle donne di fare parte della vita pubblica del paese. E questo è quello che Hillary sta facendo. La Clinton non è solo un grande modello per le donne, però, è anche il candidato alla presidenza più preparato che abbiamo mai avuto. Perciò per me è davvero emozionante l'idea che possa diventare presidente degli Stati Uniti. Her being our first woman president, hopefully, in a few weeks. E beh, c'è un competitor, c'è Donald Trump, e io mi chiedo quanto c'è nella strategia di Donald Trump di attaccare le donne, di averle definite sciatte, cani, di aver detto che la gravidanza è un inconveniente per chi lavora, per chi assume le donne, intendo. Ecco, quanto c'è di strategico in tutto questo? La domanda è: Donald Trump ha scelto volutamente di attaccare le donne perché sa che c'è un pezzo di America, maschi, bianchi, working class, che sotto sotto si sente attaccato dalle donne, quindi lui è andato a parlare di questo perché sapeva di trovare consenso. I have no idea about Donald Trump's strategy. I think non ho idea di quale sia la strategia di Donald Trump. Gli attacchi nei confronti delle donne penso dimostrino il suo carattere, le sue convinzioni e la sua visione delle donne, che è purtroppo riprovevole. Dovremmo aspirare ad avere dei leader con dei valori che rispettino le convinzioni e i valori di tutti. Le donne rappresentano metà della popolazione e sono certamente parte del processo decisionale. Dunque è un peccato che questo aspetto del suo carattere sia emerso, ma di nuovo non so se si tratti di una strategia. Credo però che sia un'immagine accurata dei suoi veri valori, e questo ancora una volta mette in luce la differenza tra lui e il segretario Clinton. Gli Stati Uniti stanno attraversando un momento difficile. Abbiamo visto i recenti attacchi terroristici, la situazione in Medio Oriente, ma allo stesso tempo è necessario guidare la ripresa economica, e credo che abbiamo bisogno di un leader che davvero comprenda la complessità di queste varie dimensioni, e la mia opinione è che Hillary Clinton sia la persona più adatta per questo compito. Questi eventi rispecchiano una triste realtà in cui le donne sono ancora sotto attacco nella loro capacità di assumere posizioni di leadership. Quindi dobbiamo ancora lavorare molto per creare un mondo in cui le donne siano viste come leader altrettanto capaci degli uomini. I think again creating a world where women are seen as credible, capable leaders just as men are. Quando Barack Obama fu eletto e sconfisse Hillary Clinton, ci fu chi negli Stati Uniti disse un po' cinicamente: gli americani hanno preferito mandare un nero alla Casa Bianca piuttosto che dare la Casa Bianca a una donna. Quanto può essere vero questo ancora oggi? It's actually an interesting point. Molti storici avevano speculato sul fatto che gli Stati Uniti avrebbero eletto un presidente nero prima di un presidente donna. Penso che ci sia più consapevolezza del problema razziale che non del sessismo e della necessità di considerare le donne alla stessa stregua degli uomini quando si tratta di posizioni di comando. È interessante notare che laddove abbiamo grande supporto per movimenti come Black Lives Matter o LGBT, non c'è un equivalente per quanto riguarda i diritti delle donne. Gli Stati Uniti sono al 97° posto nel mondo per quanto riguarda il numero di donne in Parlamento. L'Italia, per esempio, è al 42° posto. Non dico che alle donne spettino metà dei posti pubblici solo perché rappresentano metà della popolazione, ma credo fermamente che non saremo in grado di affrontare le sfide del futuro se i migliori talenti, uomini e donne, non si mettono a lavorare insieme per trovare delle soluzioni. Per me è entusiasmante vedere quante donne in Italia siano alla guida di città e ricoprano posizioni in Parlamento e nel governo. Sure. Lei è una coach anche, lei aiuta le donne in politica a sviluppare il loro talento. Che cosa è richiesto? Quali sono le qualità che si richiedono a una donna che voglia fare politica? That's a great question. So, a couple of things. One, un paio di cose. Primo, bisogna sempre guardare alla propria base, chi rappresenta il nocciolo duro del supporto politico di un candidato. Sei insegnante, una donna d'affari, una madre? Chi rappresenta il tuo primo nucleo di supporto? Io dico spesso che la leadership è un'impresa solitaria. Qualche volta ci si sente soli e fa paura. Quindi è importante costruire un gruppo di persone a cui appoggiarsi, che ti difendano e che siano lì per te. Secondo, bisogna costruire la propria identità politica. Chi sei? Quali valori rappresenti? Quali questioni sono importanti per te? È importante avere a mente i problemi della propria comunità, ma anche avere una visione più d'insieme. Spesso vediamo che le donne entrano in politica per risolvere una particolare questione che hanno a cuore, mentre gli uomini spesso entrano in politica con aspirazioni di comando. Secondo me questo è un vantaggio delle donne. Pensate a questi problemi che vi stanno a cuore e qual è la storia dietro a questi problemi. Infatti, è più facile attaccare qualcuno su delle proposte politiche che non sulla storia di un problema. Se è una storia personale, nessuno potrà dire che è sbagliata. Questi sono alcuni consigli che mi sento di dare. Certo, poi bisognerà darsi da fare per entrare in un partito politico, ma quello che è importante è avere delle basi solide prima di affacciarsi nell'arena politica. And I think really make sure you have a strong foundation before you step into the arena of politics. We really have a long way to go, not only here but all over. La strada è ancora lunga per le donne, ma credo che le sfide che avete qui in Italia non siano molto diverse da quelle che abbiamo negli Stati Uniti e in molti altri paesi del mondo. E ogni paese deve affrontare queste sfide in modo diverso. Il fatto che più uomini si rendano conto dell'importanza delle donne in posizioni di comando e più donne entrino in politica non è solo una questione di equità sociale. Si tratta di trovare le soluzioni migliori e lavorare al miglior futuro per il paese. The best solutions and the best outcomes for Italy. Se Hillary fosse sconfitta, che contraccolpo ci sarebbe sulle speranze, sui progetti di tante donne nel mondo? Sarebbe qualcosa dalla quale sarà facile risollevarsi o no? I really don't think it's going to happen. I think she's going to be elected, just to say that again. Non credo che verrà eletto Trump. Penso che Hillary sarà eletta. Ma se si verificasse la prima ipotesi, certamente sarebbe un triste evento, non solo per gli Stati Uniti, ma per il mondo. Molti paesi guardano con grande interesse alle elezioni americane. Tuttavia, il dibattito che si è creato continua. Credo che ci troviamo in una nuova era per il movimento per le donne. Il messaggio è che non saremo in grado di risolvere i problemi complessi del nostro tempo a meno che le donne non partecipino al processo decisionale. E ci sono studi che supportano questa affermazione. Dove ci sono donne al governo c'è più stabilità economica, più crescita, meno guerre. Quindi noi continueremo a combattere anche se Hillary dovesse essere sconfitta. Io sono un ottimista e credo che se dovesse succedere, magari non vedremo altre donne tentare la presidenza per un certo periodo, ma alla fine avremo un presidente donna, anche se resto convinta che la prima sarà Hillary Clinton. Thank you, Jessica. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Dunque parliamo ancora di donne e potere, parliamo di elezioni negli Stati Uniti. In attesa di sapere come andrà questo secondo duello televisivo tra i due candidati, il duello che è previsto per questa notte. Intanto il dubbio che è espresso dalla nostra ascoltatrice di questa settimana è forse un dubbio condiviso da molti. Cosa ci scrive Ada? Sono italiana e vivo a Boston per motivi di lavoro da molti anni. Come potete immaginare, in questo periodo qui non si parla che delle prossime elezioni presidenziali. Al di là del giudizio politico e delle mie opinioni su Trump e le sue continue scivolate, mi chiedo se questa volta la Clinton dovesse perdere e sarebbe la seconda. Per le donne in generale, sarebbe la fine di un sogno? Ada. meglio di Maurizio Molinari, il direttore della Stampa, può rispondere alla domanda di Ada, che poi è una domanda che ci facciamo in tante. Buongiorno, buona domenica Maurizio Molinari. Se Hillary non ce la facesse, e sarebbe la seconda volta, si può dire che mettiamo una pietra sopra alle chance di una donna presidente degli Stati Uniti? Credo di no. Hillary Clinton ha contribuito con la sua straordinaria campagna elettorale nel 2008 a guadagnarsi sul terreno il diritto di poter dire di essere stata la prima donna ad attestare, affermare il diritto che una donna può diventare presidente. Quella campagna che fu vinta da Barack Obama poteva benissimo essere vinta da Hillary Rodham Clinton, che a ben vedere prese più voti anche popolari dello stesso Barack nelle primarie democratiche. E in questa campagna elettorale Hillary Clinton si è imposta con fermezza al termine di una battaglia difficile fra i democratici, e adesso sta combattendo da protagonista la fase finale. Hillary Clinton in queste due campagne ha testimoniato che non solamente lei, ma una donna in America può farcela ad arrivare alla Casa Bianca, e questo è a prescindere dal risultato dell'8 novembre. Ecco, naturalmente nella situazione attuale contano i dibattiti televisivi, ma quanto secondo te, direttore, sono la chiave poi per stabilire chi vincerà l'8 novembre? Nel primo dibattito i media hanno decretato la vittoria di Hillary Clinton, immagino che tu l'abbia seguito, io l'ho seguito, l'ho visto due volte e devo dire che alcune belle, diciamo, battute o reazioni Trump le ha messe a segno, anche se in generale Hillary Clinton è senz'altro sembrata più competente e preparata. Hillary Clinton ha prevalso i punti nel primo dibattito alla Oxford University, non è stata una vittoria per KO. La sorpresa casomai è stato Trump, che è riuscito a tenere le testa in più occasioni, lì dove lei sulle tematiche più ferrata e più concreta. In generale i dibattiti non sono decisivi nella storia presidenziale americana del dopoguerra, se non perché uno dei due contendenti commette un errore drammatico, talmente evidente da essere percepito da tutti. Ciò che più conta nelle gare presidenziali americane e la capacità di resistenza fisica dei candidati nel riuscire a raggiungere il maggior numero di elettori possibili nel maggior numero di stati decisivi per l'assegnazione. Proprio su questo, sulla resistenza fisica, certo tu citavi il 2008 e ci ricordiamo una Hillary che era sicuramente più in forma di quanto non sia oggi. Quanto ha inciso quell'immagine di lei portata via a New York nel giorno della commemorazione del 2011? Le ha fatto perdere molti punti, secondo te? È la sua maggior debolezza. La maggior debolezza di Hillary è la sua età, il sospetto sulla sua salute molto cagionevole, il fatto di essere antipatica, come dicono i suoi stessi stretti collaboratori, e l'incapacità di far sognare i suoi elettori. Questi sono i suoi quattro punti deboli. Ma in ultima istanza, poiché il rivale si chiama Donald Trump, ne ha molti di più, possiamo dire che la gara sta a lei vincerla o perderla. Non potrà essere Trump a vincere, può essere solamente Hillary a perdere. Ma è possibile che il signore del mondo, perché a tutt'oggi il presidente degli Stati Uniti è un po' una sorta di imperatore globale, si debba scegliere per simpatia o antipatia? Gli elettori americani che sono quelli che poi direttamente saranno chiamati a decidere, anche se ci sentiamo tutti un po' elettori quando si tratta di presidenziali americani, ecco, gli elettori americani che si trovano a dover confrontarsi con una crescente disuguaglianza sociale, con la presa d'atto che la globalizzazione ha emarginato grandi fette di popolazione e non ha arricchito così come si sperava all'inizio. Ecco, gli elettori americani, secondo te, decidono ancora sulla base dell'empatia del personaggio? Ma questo elemento resta decisivo perché l'America è una nazione continente. 50 stati, 6 territori, 300 milioni di abitanti. Per raggiungerli tutti servono dei messaggi estremamente semplificati. Per questo restano importanti le pubblicità elettorali televisive e per questo restano importanti i messaggi che queste pubblicità trasportano, che in estrema sintesi hanno a che vedere con il carattere del personaggio e con il sogno che questo personaggio sa interpretare. Ma quanto c'è di vero secondo te e quanto invece l'abbiamo costruita noi giornalisti, media, sul fatto che le donne e le giovani donne americane soprattutto non hanno simpatia per Hillary Clinton? Perché io ricordo che per esempio appunto nel 2008 alla convention di Denver c'erano, le ho viste con i miei occhi, un sacco di donne per Hillary piangere quella sera in cui lei dovette poi tenere il discorso in cui rinunciava alla nomination a favore di Barack Obama. Quanto c'è di vero e quanto c'è di costruito, di artefatto nel fatto che le giovani non amano Hillary, non la considerano un modello? Io credo che questo venga soprattutto dall'efficacia della campagna del suo rivale nelle primarie, Bernie Sanders, che pur essendo un senatore di 70 anni, l'unico a definirsi socialista, è riuscito a fare una campagna che ha trainato i giovani, ha spinto i giovani a emozionarsi per lui, soprattutto le giovani. È impressionante come fra le giovani donne le democratiche e liberal le preferenze per Bernie Sanders siano sempre state superiori a quelle per Hillary Clinton. Nella convention di Filadelfia dei democratici le giovani militanti gridavano il nome di Bernie Sanders. Questo perché sono tradizionalmente l'anima più liberal dell'ala liberal, come diceva Ted Kennedy del Partito Democratico. Hillary non è una partigiana e una paladina dei liberal, interpreta invece l'anima dell'establishment, dei centristi, dei moderati, piace ai repubblicani. Cioè l'anima di Hillary è la realpolitik, non è il sogno liberal alla Ted Kennedy, Certo. Che invece in Bernie Sanders. Abbiamo molto parlato di Hillary perché è la candidata donna e nessuna è perfetta in questa puntata, pensa appunto a una proiezione, no? di potere femminile alla Casa Bianca, ma secondo te nella strategia di Donald Trump, che ha scientificamente attaccato le donne almeno nella prima parte della sua campagna elettorale, c'era il calcolo di fare riferimento con questi suoi attacchi a quella parte di maschi working class americani che si sentono attaccati, insicuri per via del fatto che le donne negli Stati Uniti stanno conquistando sempre più spazio, sono economicamente autonome da molto tempo? Donald Trump ha dovuto costruire dal nulla un nuovo partito perché i repubblicani lo hanno sempre osteggiato, disprezzato e non lo hanno sostenuto e non lo sostengono. Il partito di Trump è il partito della rivolta, della protesta da parte del ceto bianco medio-basso, non colto, composto in stragrande maggioranza da uomini. Per edificare questa anomala e insolita coalizione elettorale, lui ha puntato all'inizio, nella fase iniziale delle primarie, tutto sui pregiudizi contro le minoranze, contro gli immigrati e contro le donne, nel tentativo di mobilitare proprio questa fascia particolare, gli uomini bianchi che non sono andati all'università. E questo suo tentativo ha avuto un successo schiacciante, perché in realtà se andiamo a vedere questa fascia elettorale, lui ha un tasso di preferenza attorno al 73-75%. Impressionante. È impressionante. Se lui esiste come candidato è grazie a questa fascia sociale che si basa anche sull'ostilità e il pregiudizio nei confronti delle donne. Grazie Maurizio Molinari, grazie per essere stato a Nessuno è Perfetta e averci dato una chiave che credo sia una risposta più che esaustiva alla mail della nostra ascoltatrice Ada. Buona domenica a te e buona domenica a chi ci sta seguendo. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Continuiamo a parlare di donne e di un lavoro speciale. Fare la numero uno alla Casa Bianca, l'imperatrice del mondo. Riuscirà Hillary Clinton a diventare presidente degli Stati Uniti? Allora, partiamo da questo e valutiamo insieme alla nostra coach se nelle donne c'è una minore propensione al rischio e questo in che modo può influenzare le nostre scelte. Buona domenica Carla Ciani, bentornata a Nessuna è Perfetta. La propensione al rischio è una questione di genere, Carla? La propensione al rischio non riguarda essenzialmente una differenza di genere, in realtà riguarda delle differenze comportamentali tra le donne e gli uomini, differenze che si stanno via via sottigliando, che sono sempre meno evidenti. Infatti se osserviamo i ruoli professionali o manageriali o nello sport, le donne presentano una propensione al rischio che non è così diversa da quella degli uomini, evidentemente perché sono inquadrate in un modello che implica il rischio, e addirittura in contesti di crisi sono più propense degli uomini ad accogliere il rischio. Facciamo un esempio di una situazione di crisi in cui la donna ha dato prova di essere propensa al rischio. Il caso per esempio di un'imprenditrice che ha accolto il contesto di crisi della sua azienda come un'opportunità per modificare i suoi prodotti, per ristrutturare l'azienda, cambiare i modelli organizzativi. Quindi senza deprimersi. Ma... senza deprimersi, oppure la donna che semplicemente ha perso il lavoro e che ha deciso di aprire un'attività sua propria. Certo, non si rimane lì in attesa che qualcosa succeda. Senti, mm-hmm. Carla Ciani, quali domande dobbiamo porci quando mm-hmm. abbiamo di fronte un'ipotesi che ci appare rischiosa, un'ipotesi mm-hmm. di investimento che ci appare rischiosa? Dobbiamo fare una piccola premessa che riguarda appunto un modello di comportamento di propensione al rischio. La donna è da sempre orientata alla conservazione e alla protezione e l'uomo alla conquista. Certo. Per l'uomo essere amante del rischio è un aspetto positivo, è premiante e quindi anche incentivante, mentre per la donna positivo e premiante è essere cauta, protettiva. Certo. In questo senso anche gli investimenti finanziari sono visti dall'uomo più nell'ottica del guadagno, mentre dalla donna sono visti come uno strumento per garantirsi semmai la conservazione e la sostenibilità di uno... Carla Ciani, l'ultima domanda riguarda la sfera emotiva. Si fanno investimenti dettati dall'emotività? Certamente, nell'ambito finanziario ci sono competenze molto specifiche che inquadrano gli effetti del contesto emotivo sugli investimenti. Diciamo che le emozioni che manifestano gli uomini e le donne sono molto diversi rispetto per esempio a una perdita finanziaria. La donna sente paura, l'uomo invece sente rabbia. La paura è evidente che genera una avversione al rischio, mentre la rabbia genera addirittura una maggiore predisposizione a rischiare nuovamente. Grazie. Bene. Grazie. Grazie Carla. Grazie Carla Ciani. Buona domenica a te e a voi che ci avete seguito. Noi ci sentiamo domenica prossima.